Alessio, attenzione Alessio, Antonello, attenzione Antonello, Antonello. Chi è? Hola. Chi è che fischia? Ma è una trombetta? Buonasera anche a lei. Pensa che no, se manca qualcuno, non entra più nessuno, non entra. Domani siamo in Giappone, dobbiamo fare il telefono, il computer, così. Ma insomma, la vita è tanta nuova. Sì, oia. Sta venendo, niente, se vuole entrare, ma mi pare che sono tutti vura. Ma anche adesso se voglio entrare già si può entrare. Certo. Non abbiamo fatto altro. A chi c'è dai non abbiamo fatto altro. Bello signor Gio Maria, dopo di tanto che lo sento. Gio Maria, e allora? E caspita, se andiamo bene, andiamo. Bene, ieri sera sta accendo, aspetta delle opposte di te. Non ti ho sentito, ma no, qua era avanti, era là, no. Guarda, io c'ero tutta la sera, era acceso. Poi verso le 7.25 è entrato Battisio che stava facendo gli aggiusti. Abbiamo chiuso che erano le 8. Io già sta partito fino alle 8, anche prima delle 8, perché sono un po' spesso, non c'è la vita, però spesso non le 8. Lo so, c'era Bacchigio che stava facendo degli aggiustamenti e sono rimasto con lui fino alle 8. No, là no, non ci sono neanche entrato. Infatti, trovo, perché io per sempre, ma non ci arrivo da fuori. Io ho capito, che già avevo capito, sì, ma l'altra volta a me arrivavi bene. Beh, a te appoggio e gli altri. Luca ti sentiva più bene di me, che è più vicino. Ego, bambino, nel tuo posto, sono un socio, però ti ho parlato con un grande di cura. Ah, quello sì, a voglia, certo. Riprendetela Luca. Grazie a Romano, un computer, no, mi ringrazio. Sì, prego, un po' più che fate, fa bene. Ma anche per il tipo di luce, da voi. Ehi, ce l'hai mai compreso? proprio a me. Sì, a me la metti. Infatti, già lei stava in barco di mano, con un bambino. Io ce l'ho acceso, ce l'ho portatile acceso. Sto facendo ascolto lì su quel programma. Con il computer. Ecco, il computer te lo devi, te devi mettere la password del coso che c'ha tua figlia. Vai, infatti, vai, è normale. No, devi guardare dietro al modem che c'è la password, dietro al modem c'è un numero, secondo cosa è, e ci devi mettere la password nella, nel computer. Basta connetterti con il campo Ethernet, magari ti metti in campo al modem dietro, che magari se ne installa, non so, e l'altro lo inserisci nel computer, connetti. Così ti lo spassi una mezz'oretta, te la spassi, invece stai sempre attaccato al televisore. Ah, chi scusi? A me chi scusi, che faccio, non funziona a Dorra. Diciamo che l'apri a Dorra e arrivai a cercare di idratarlo da portarmelo appresso, non da davvero, non funzionava. Bene, già ce l'ho, dall'anno scorso ce l'ho, che me l'aveva dato Giovanni, le avevo pulite così, dove ci vanno le batterie. L'ho provato, ma manco il glucoso, l'alimentatore funziona. Il midrant c'è, cioè, il midrant, ma solo che costa un po' garito. Si attacca la batteria sotto, si attacca quello lì, con quello lì, so che costa un po' garito, guscia. Passa le 100. Infatti, c'è il pacchetto batterie, c'è il pacchetto, il coso per metterci le batterie è alcalino o di quelle ricaricabili, e poi c'è un altro caricatore, mi pare, ma tre caricatori. Non ci mettere di più però, se no andiamo male. Vero Giovanni? Troppo ci stai mettendo Luca, Giulia, chiette che andiamo via, andiamo. Oh, boh. Manco male non offendeva. Non si sa più cosa devi fare, boh. Ma non è quello il fatto, no? Che questo vortice sta girando, girando, se mi faccio allontanarsi, se ne torrenni in occhi, se ne torrenni. Quel vortice ha girato verso lì, si è girato e ha caricato voti. E quello sai cosa vuol dire? Che non puliscono quando devono pulire. Ecco cosa è. E infatti, poi mettono in allerta tutte le altre, tutte quante il paese e cose, e se ne affuttini, che hanno già l'agaduto, la calamità. Grazie, della detto che deve essere attaccato al computer, o se no è erogoso, ha detto chiedono un attacco di 27. Certo, non lo so, boh. E se no non l'anda di... Ha detto che entra con lo BMR e l'anda a vedere. Però che andava, è portato, Ehi, te lo faccio vedere qualcuno e te lo mando. No, già stai uscendo bene, qualche volta c'è qualche scarica. Pianto elettrico, certo. C'è una cosa che non va, è qualche, non lo so, sono alternata io, sento l'uomo alternata. Se la senti tu qua non si sente. Boh. Ma me la porto io. Ciao Luca, buona passeggiata. grazie, è tutto, ci sentiamo. Voglia, sento anche bene, come segnale, come tutto. Ah, so, era 15, quasi a 16 volte. Poi non me l'ho toccato, perché stavo sul novale. Ah, quindi 16, ma di cosa? Di dell'alimentato? Allora, perché a 13 volte era, sì. Ah, pagisci allora. Allora, sono accorto, ma come lo batte, lo stupido, lo stupido, ma come potrei accorgere se sono letto? Che ti rincolta buonanotte, va bene, dai, buonanotte. Ciao Luca. Infatti, se è a 16 è troppo alta, deve essere 13 e 8 al massimo. Buono, è molto buono quello, se rimane sempre così. Invece a me che sono della ZG è andato a farci fottere. Infatti, oh io ragazza, bb, che ne deve intendere un cosa e sta cosa, ma, certo, è proprio così. Cosa si sente? Sì, stasera c'erano gli spagnoli e così. E come ti si chiama? La Grecia di... la base della Grecia. Guardo se ce n'è troppo qualcuno a vedere di quelli portati omologati piccolini. C'è quello da cosa, dalla Midra che avevo visto io, c'è la Pachigio anche, piccolino, tutto digitale, c'è il pomello tipo come questi, come tipo come quelli del PMR rimangono. Lo usa Pachigio molte volte, ce lo usa, ce lo porta in campagna. Stava anche usando in casa, attaccato al cavo, stava usando, e usciva benissimo. Sentiamo.